tu e me, tu accordi odit a me, me nur tempe tu, care, me accordi odit a tu, niun cordio fat, ec du. Tu oculicis, le mea, colorisas li umbrea, me oculicis, le tua, colorisas li hel blua, e lacisi, per flugar, ir nel ammi, su cushal.